gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao Como, questa è la buonanotte di allineamenti. Io sono Andrea Paolo e la storia che vi vorrei raccontare stasera è tutta italiana, anche se ambientata quasi interamente negli Stati Uniti. La storia inizia con delle monete d'oro, quelle che un emirato italiano ha guadagnato in America e che una volta tornato nel paesino d'origine in Italia mostra al padre della ragazza che vuole chiedere in moglie. Il matrimonio si celebra, ma la mancanza di prospettive, siamo alla fine del 1800, spinge la coppia ad emigrare in America e durante il viaggio la moglie comunica al marito, Luigi Giannini, di essere incinta. In America Luigi si dimostra un efficace imprenditore tra alberghi, coltivazioni di terreni e commercio di ortofrutta. Fin qui è una storia uguale a quella di tanti altri emigrati che sono riusciti a crearsi un'esistenza oltreoceano. Ma è il figlio Amadeo, concepito in Italia e nato a San Francisco, il vero protagonista della storia di oggi. Siamo nel 1906. Amadeo è socio di una banca e la terra inizia a tremare. È il terremoto di San Francisco che distrugge completamente la città. Allora Amadeo prende i lingotti dalla cassaforte della banca, il cui edificio era stato anch'esso distrutto, e li porta al porto, dove inizia ad erogare prestiti a tutti gli immigrati, nonostante spesso questi non sapessero neanche firmare e quindi firmavano con una semplice croce. Il risultato fu che il quartiere italiano fu il primo ad essere ricostruito e abitato nella città di San Francisco dopo il terremoto. Amadeo trasformò la sua banca, la Bank of Italy, nella Bank of America e con il tempo riuscì in tantissime imprese. Finanziò i primissimi film di Charlie Chaplin e Walt Disney, quando ancora erano sconosciuti. Anticipò i soldi del piano Marshall in Italia, era stato lui stesso a far pressioni al presidente degli Stati Uniti per attuare questo piano. Creò la prima filiale con solo lavoratrici donne. Fu il primo a finanziare l'acquisto di automobili a rate, finanziò la costruzione del Golden Gate, lanciò un servizio a basso costo per permettere agli immigrati di inviare le rimesse alle famiglie di origine. Le banche fino ad allora avevano applicato commissioni tra il 20 e il 50%. Amadeo Peter Giannini tutelò anche i familiari degli impiegati, con assicurazioni che coprivano tutta la famiglia del dipendente. Amadeo fu protagonista di decine di altre iniziative che provarono la sua modernità ed il suo buon cuore. Poi non bisogna certo santificarlo, dal romanzo che ne racconta in maniera abbastanza verosimile e veritiera la sua avventura, si percepisce una certa spietatezza negli affari e quindi una leggera mancanza di fair play. Tuttavia, mi sento orgoglioso che la Bank of America sia stata fondata da un italiano con una vita tanto illuminata e spero che potrete conoscere la sua storia in maniera approfondita attraverso un libro o perché no anche attraverso una rappresentazione teatrale. Grazie e buonanotte. Troppo tempo perso senza trovare niente, ho camminato a lungo, ho visto molta gente. A volte è stato bello, a volte indifferente, ma quello che ho capito non è stato sufficiente. Troppo tempo speso senza imparare niente, ho camminato molto, ho perso molta gente. A volte è stata dura, a volte indifferente, ma quello che è distrutto lascia un vuoto quasi sempre. A volte si sta male, ma sembra sia normale. Basta saltare adesso, vedrai non sarà più lo stesso.